grazie mille alla professoressa Gaidano, grazie a Alessandro Visentini. Abbiamo degli ospiti eccezionali questa sera che ci introdurranno in un mondo per me ancora sconosciuto e con grande rispetto nei confronti della musica e soprattutto degli artisti e dei musicisti. Il percorso che abbiamo scelto di fare nel mese di maggio è dedicato alla musica, in particolare alle donne e la musica, e anche a questo percorso storico che, grazie allo studio e al libro di Daniela Gaidano, e anche con la collaborazione di Alessandro Visentini, abbiamo scoperto che esiste un violoncello da spalla. Esisteva, sì. Esisteva un violoncello da spalla, è stato ricostruito, abbiamo sentito anche la musicalità, i suoni, la possibilità di maneggiarlo, perché poi sono molto coinvolta anche da questa fisicità del musicista, no? Che è prorompente. Si può provare dopo. Io sono qui fino alle 9, quindi no, mi devo scusare perché poi devo andare di là, ho un'altra cosa che mi hanno incastrato. Comunque, vi ringrazio perché sono sempre delle occasioni anche diverse per approcciarsi al mondo della musica, che vedo per tanti è immenso e sconosciuto, non sempre si conosce e si può entrare in tutte le sfaccettature. Abbiamo avuto la settimana scorsa un saggio di questa musicazione, se così si può dire, del poema delle Dolomiti scritto dalla Bruna Maria Dalla Goveneri, e poi ci sono state le occasioni per sentire come veniva musicato. Poi pochi giorni fa abbiamo avuto un percorso storico della musica, della canzone napoletana, di quella romana e le contaminazioni nella musica moderna, anche quello per me era un mondo completamente nuovo. E oggi chiudiamo in bellezza questo primo tentativo, che ci piacerebbe coltivare ulteriormente col vostro aiuto, di approccio anche storico, se vogliamo, della musica. Tutti questi queste indagini, anche questa ricostruzione, questo artigianato e questo studio storico pazzesco che ha fatto Daniela Gaidano per trovare questo strumento, che devo dirle, ecco, il violoncello da spalla, proprio non avevo idea di come potesse configurarsi. Esatto, non sei l'unica. E però mi ha stupito questo suono, devo dire, mi ha colpito molto, mi piace. E soprattutto complimenti per l'esecuzione e per lo studio. Ecco, la biblioteca è anche questo, quindi speriamo sempre di creare delle occasioni di incuriosirvi, soprattutto di incuriosirvi, grazie all'aiuto delle persone, professionisti. È arrivato il tempo da fare queste cose. Sì, anche. Sì, decisamente. Il sottotitolo di tutte queste iniziative che vogliamo qui tra gli scaffali si chiama Back to the Library, anche per questo abbiamo scelto inglese, facciamo stiamo facendo un po' di marketing, però... Vogliamo tornare in biblioteca, vogliamo tornare nei teatri, vogliamo tornare a sentire i concerti e quindi sì, avere anche questa fisicità serve. Noi ringraziamo, è importante comunque. Ecco, sì, insomma, qui ci siamo, riprendiamo anche noi, ma grazie anche a loro e a voi che partecipate. Poi piano piano si prenderà più confidenza, perché adesso la ripartenza è ben stata dura per tutti. Tanti in bocca al lupo, ogni bene a tutti voi. Grazie. E sono qui, poi ci vediamo dopo. Grazie mille, grazie, arrivederci, buonasera. Allora, noi siamo Daniela Gaidano e Alessandro Visentini e siamo qua a farvi una relazione su un progetto che è partito grazie ai sostegni Covid per artisti della provincia Ripartizione Cultura Italiana, che è stato il primo anno la costruzione di questo violoncello di cui vi racconterò. E il secondo anno il libro e un video che vi mostreremo alla fine. Quindi il progetto è sul violoncello da spalla. Il violoncello, come sapete, è normalmente uno strumento più grande che si suona da seduti e più fra le gambe. E quindi, ecco, come potrete immaginare, sì, insomma, che ci azzecca. Da dove salta fuori questo strumento suonato in questo modo? Abbiamo tantissime fonti che ci fanno pensare che esistesse, che finora sono state poco considerate o considerate delle licenze artistiche, degli errori di stampa, solo che quando se ne mettono tante in fila o si vedono tutte insieme sono un po' tante appunto per evitare di considerarle. Quindi ho cominciato a buttar lì un po' di iconografia, perché è la prima che di solito si dice, vabbè, licenza artistica e passione. E poi parlo dell'epoca. Intanto volevo cominciare con questo che illustra una famiglia di viole da braccio, perché i violini erano nella famiglia delle viole da braccio e poi c'erano le viole da gamba che si suonavano come si suona oggi il violoncello. Forse possiamo spostare un attimo questo. E quindi in questo vediamo appunto una famiglia di viole da braccio di cui il basso viene suonato appeso a una tracolla in posizione quasi come quella con cui ho suonato io adesso, per una festa campestre. Questa altra iconografia, stesso periodo però Italia, la prima era Antwerp, dove è praticamente la stessa cosa, violino, viola, contralto e basso suonato nello stesso modo. Questo tra l'altro è molto carino, molto particolare, perché è un libro decorato con delle piume d'uccello appiccicate, per cui quelle sono tutte piume d'uccello appiccicate a fare le immagini. Questo invece è nella cattedrale di Crema, 1643, e anche questo è stato sempre poco considerato, dicendo vabbè, ma è un angelo, gli angeli non sappiamo quanto sono grandi, quanto sono piccoli, per cui non ci dice niente sulla misura dello strumento. In realtà quello che ci dice è che indipendentemente da quanto grande lo strumento, veniva suonato anche in posizione orizzontale, magari in condizioni particolari, ma che comunque si faceva. E nella stessa chiesa, a confronto, c'è questo putto che suona invece un violoncello che sembra più piccolo, ma lo suona verticale, appoggiato sul puntale. Qua di nuovo sono dei putti, però si vede di nuovo uno strumento decisamente grande suonato sulla spalla, sempre camminando, andando a una celebrazione. E qua, questo è Venezia, 1684, è interessante perché ha 5 corde. Non si vede bene da questa immagine, comunque ha 5 corde esattamente come questo, il violoncello normalmente ne ha 4. E 1684, per cui cominciamo a essere, anzi siamo decisamente nell'epoca in cui il nome violoncello e il violoncello anche come lo conosciamo oggi era già nato. Ah, qua un salto indietro, scusate, Roma, messa a 4 cori. E vediamo bassi suonati un po' in tutti i modi, orizzontali, verticali. È bellissimo quello che c'è in basso a sinistra, che è verticalissimo ed è più o meno della stessa misura di quell'altro che c'è in alto a destra, che invece è al contrario. E dà l'idea anche, una cosa che viene detta di solito, è che uno dei motivi per suonare così era la mancanza di spazio, cioè se devo suonare in una balconata o la balaustra qua non ci sto, tiro su. Poi in realtà se tiro su secondo me do fastidio ai vicini, per cui ho dei dubbi, però sicuramente queste iconografie danno l'idea della mancanza di spazio, del caos, delle condizioni in cui si trovavano a suonare. Questo è Westminster, l'interno di Westminster all'incoronazione di non mi ricordo chi, però carina, mi piace tanto questa. E questa è quasi uguale ed è Bologna praticamente 5 anni dopo, nello stesso anno, anche qua. Questa si vede un po' meno perché sono tanti segni, ma in centro si vede un basso suonato per così. 1700 circa, cioè XVIII secolo, in Francia, e questa mi ha sempre colpito, anche qua vediamo c'è tutta la famiglia perché c'è il violino nell'angolino, poi c'è la viola e poi c'è il basso. Mi colpisce quanto questa somiglia alla prima che vi ho mostrato di Bruegel, perché sono 100 anni di differenza, e anche come questo strumento di questa iconografia comunque assomigli come forma a questo, col manico molto molto corto e un corpo abbastanza ampio. Questo è Spagna, stesso periodo. E questo stesso periodo Firenze, qua di nuovo c'è l'idea della mancanza di spazio, potersi avvicinare a leggere le parti, questo è molto simile a quest'altro, Bologna. Però ecco, anche qua secondo me uno si può avvicinare anche da dietro e leggere parti da dietro lo stesso, non è che, cioè secondo me dà un attimino l'idea del fatto che veniva suonato in vari modi e magari secondo la tecnica di chi lo suonava, cioè se io ho studiato da violinista, ho imparato a suonare il violino, per me è più comodo diteggiare in questo modo e tenere l'arco in questo modo che non cambiare tutto. Il fatto, cioè la cosa che colpisce è che lo facevano, cioè suonavano in questa posizione indipendentemente dalla dimensione dello strumento, perché abbiamo strumenti piccoli come questo che ho suonato adesso e anche strumenti decisamente grandi suonati orizzontali. E quindi un pochettino di storia. Il violoncello come parola e come strumento nasce in area padana, cioè nel triangolo compreso tra Bologna, Parma, Piacenza e Venezia, alla fine del XVII secolo, cioè dopo la metà del Seicento. Qua abbiamo una serie di iconografie molto carine che l'insegna degli anziani è praticamente una cronaca redatta a Bologna per, mi pare, 300 anni di storia di Bologna. Ogni due mesi commissionavano un'incisione che illustrava un evento importante che era accaduto in quei due mesi. E nel Settecento abbiamo appunto tante raffigurazioni di bassi suonati in tutti i modi. Sono molto carine e danno l'idea di come fosse una cosa comune. Niente di eccezionale, insomma. E a Bologna abbiamo l'Accademia di San Petronio, che è forse una delle prime grandi orchestre con grandi famiglie di strumenti che suonano in chiesa appunto dietro una balaustra, quindi un'occasione molto simile a quella illustrata qua. E per fare dei nomi che tutti conosciamo, nomi della storia della musica, ad esempio Giovanni Battista Vitali suonava a San Petronio e ha ottenuto, non mi ricordo l'anno, mi pare 1780 qualcosa, di suonare anche nel Concerto Palatino, che era un ensemble di fiati che accompagnava le processioni, e lui si definiva violonista da brazzo, per cui uno che suonava il violone, che è uno strumento grande come un contrabbasso, però da brazzo, e ottiene di camminare in processione, per cui dà un'idea, insomma. E poi abbiamo un altro personaggio noto come nome e molto importante, che è Bononcini. Questo è un disegnetto che ha fatto Giovanni Pistocchi quando aveva 12 anni, che è un cantante. A 12 anni, durante le prove, si è messo a scarabocchiare su una parte di Bononcini e ha fatto una caricatura in cui vediamo Corelli, che suona in basso a sinistra, che suona il violino, e a destra vediamo Bononcini che suona il violoncello. E questo è Giovanni Bononcini, il padre, perché sono tre i Bononcini, è facile confondersi. E che è quello che ha scritto un trattato molto importante intitolato Interrogazione. Chi si ricorda cosa ha scritto Bononcini? No, lo voglio menzionare perché ricorre nei secoli il trattato di Bononcini, che è un trattato, solo che senza occhiali non lo vedo, gli occhiali ce li ho pesi. Eccoci qua. Il Musico Pratico, che è un trattato di contrappunto che è stato tradotto ed è diventato molto famoso, è stato molto studiato per molti secoli, è tradotto in Germania, praticamente si usava una volta, cioè faccio la traduzione di un trattato, me la prendo, ci metto il mio nome e ci aggiungo 3-4 pagine alla fine. E quindi vedremo dopo quali trattati è diventato questo Musico Pratico di Bononcini. Bononcini tra l'altro era un violinista, noi lo conosciamo come violinista, e allievo di Uccellini, per cui senza dubbio violinista. Lui ha avuto due figli che hanno imparato a suonare da lui e sono tutti e due violoncellisti. Entrambi hanno viaggiato molto in Europa. Uno è stato a Londra, dove scriveva opera ed era contrapposto in una querelle fra lui, opera italiana, e Handel, opera tedesca, e ha usato molto il violoncello come parte obbligata nelle arie, per cui una parte solistica che si interseca con la parte vocale. E, mentre suo fratello, altro Giovanni, ha suonato molto a Bologna, in leggio con Torelli, al primo leggio, per cui è il nostro famoso violoncellista che suona in leggio con Torelli, violinista, e le sue sonate sono molto particolari perché sono praticamente delle fioriture del basso, non una vera parte melodica, non basso e melodia, ma c'è il basso e poi c'è come una realizzazione, cioè lui usa molte doppie corde, da cui si vede fra l'altro dalle doppie corde che suonava in posizione orizzontale, sia da come usa l'arco che da come diteggia, come a realizzare l'armonia del basso, oppure semplicemente replica la linea del basso fiorendola. Per cui indica un po' una pratica che c'era di usare questo strumento per rinforzare barra abbellire il basso. E, beh, un altro nome molto importante che noi conosciamo come violinista è Dall'Abaco. Dall'Abaco viene mandato a studiare violino da Vitali Tommaso Antonio, uno dei figli del Vitali di prima, e torna come acclamato violoncellista. Viene assunto da quello che diventerà principe elettore di Baviera, ma in Spagna, alla sua corte, viene assunto come violoncellista da camera e poi, quando si muove sempre con la corte in Baviera, diventa spalla dell'orchestra. Per cui, insomma, violoncellista un po' atipico comunque. Queste cose sono sempre state pensate come multistrumentalismo. Però sono talmente tante, cioè dire, ah sì, nel barocco tutti suonavano tutto. Sì, magari sì, ma in posizione come gli era comodo, cioè non è detto che... E un altro nome, un nome importante è Caldara, Caldara da noi conosciuto come violoncellista e compositore d'opera, che viene assunto e pagato a San Marco a Venezia come violetta, viola da spalla, e basta, è contralto, credo. Per cui anche qua c'è un cambiamento di nomi, nel senso che i nomi non erano standardizzati, per cui violoncello, che vuol dire violone piccolo, in realtà era chiamato violoncino, violonzono, viola da spalla, c'era un po' di tutto, per cui è anche difficile essere chiari. Già, questo, scusate. E questo è Torelli, concertino per camera, violino e violoncello, opera 4, in cui la parte staccata del violoncello ha questo capolettera, che è stato inciso da Carlo Buffagnotti, che era un violoncellista a sua volta, allievo di Iacchini, e Iacchini è stato uno dei violoncellisti di San Petronio. Per cui anche qui comunque, cioè, si vede, sì, festa campestre, un violoncellista che va camminando, però chiaramente sapeva cosa stava incidendo, per cui comunque nomi noti, perfino Tartini, che poi è stato il compagno di Pistocchi, hanno viaggiato insieme in tutta Europa, Pistocchi quello che ha fatto il disegnetto di Bononcini all'inizio, Tartini ha scritto un concerto che oggi consideriamo per viola, però insomma, per la viola è difficile, lo dico da violista, per violoncello anche, perché è molto acuto, mentre per un violoncello piccolo, accordato, sorre la mi, cioè una quarta sopra, sarebbe stato molto facile in prima posizione. Poi arrivo meglio a questa cosa. Ecco, per cui della posizione abbiamo parlato ampiamente. Riguardo alla taglia e all'accordatura, se noi prendiamo un violoncello normale di oggi e mettiamo un capotasto in quarta posizione, come se fosse accordato invece che do, sorre la, accordato, sorre la mi, otteniamo come lunghezza esattamente la lunghezza di questo. Questo vuol dire che con le corde da violoncello io posso avere un violoncello più corto e accordarlo sorre la mi e fare un violoncello tenore. Il tenore di suo non è una grande invenzione del Settecento, ma è una cosa che è sempre esistita, cioè fin dalle famiglie di strumenti medievali. Semplicemente quando le corde erano solo di budello, cioè solo di un materiale, Si vede anche da qua, io per fare una nota più acuta ho una corda più sottile, per fare una nota più grave una corda più grossa, a un certo punto arrivo ad avere una corda talmente grossa che non suona più, che non riesco più a muoverla, allora faccio uno strumento più lungo. Così posso avere corde più sottili e ho di nuovo la stessa corda sottile, quella più grossa non mi basta più, faccio un altro strumento più lungo. E così nascevano le famiglie di strumenti. Qua infatti vediamo fine 500, Orlando di Lassos, qua si vede tutta la famiglia, ci sono i bassi e quello che ho sottolineato è un tenore che è della stessa misura di quello che ho suonato io. Cosa succede a fine 600 di diverso? Che a Bologna proprio viene inventato un tipo di corda diverso, cioè una corda sempre in budello, però rivestita con un filo di metallo. Così è più pesante, può essere più sottile a parità di nota e di lunghezza e quindi è più facile metterla in vibrazione. Quindi vedete qua che quando io passo dal budello nudo a questa fianco che è rivestita hanno quasi la stessa misura. Invece dovrei avere la stessa scalatura che ho qua tra piccolo e grande. Questo cosa ha permesso? Di avere corde più sonore, più facili da suonare, ma anche di accorciare gli strumenti, quindi di avere i bassi grandi che avevo prima, averli un po' più corti. Allo stesso modo di prendere i tenori di prima e volendo accordarli da basso. Quindi non è la grande invenzione che ha cambiato il secolo, semplicemente c'è stata questa cosa tecnologica che ha permesso di accordare uno strumento diversamente. Vi suoniamo qualcosa perché ho già parlato troppo, poi parlerò meno. Solo che prima non ci vedevo niente, per cui... No, è l'altezza delle GIO che mi va proprio sul cambio di fuoco degli occhiali. Per cui preferisco stare senza occhiali. Capita con certi tipi di occhiali. Vabbè, poco non, che non diciamo gli occhiali, quali. Devo ancora abituarsi, però hai girato i GIO. Togliamo, siamo su quello che è più stabile. Benedetto Marcello era un dilettante, parlando di musica, nel senso che faceva l'avvocato, veneziano, e ha pubblicato ad Amsterdam, sempre a proposito degli italiani che vanno in giro per tutta Europa. E, ad esempio nelle sue sonate, le sue sonate sono molto acute per i violoncellisti di oggi, sono quasi tutte suonabili con un violoncello tenore accordato sole la mia. Thank you. parlo del ruolo, abbiamo visto, può essere un basso, può essere uno strumento solista, e può essere appunto uno strumento che realizza il continuo e che riempie il continuo. E questo ci viene spiegato da molti trattati, perché in realtà ci sono parecchi trattati che parlano del violoncello da spalla, che sono appunto stati considerati come delle sviste, come degli errori di stampa. Il primo che lo nomina e che usa proprio la terminologia violoncello da spalla, anzi è l'unico che usa il termine violoncello da spalla, che poi oggi abbiamo ripreso e usiamo abbondantemente, ma in realtà è stato usato solo questa volta, è Bartolomeo Bismantova, 1694, Ferrara. Questa è una seconda edizione, per cui nella seconda edizione, una dozzina di anni dopo, mi pare, dalla prima, lui sente il bisogno di introdurre un foglio con questo strumento, per cui evidentemente in quegli anni era diventato molto popolare e quindi ha sentito il bisogno di descriverlo come strumento di continuo. E qua ci sono già molte cose che confondono, perché nei trattati ci sono tante cose che possono confondere le idee, semplicemente perché non c'era una standardizzazione, come non c'era nei nomi, non c'era neanche nella pratica. Per cui lui lo chiama violoncello da spalla alla moderna, quattro corde accordate re, sol, re, la, e quindi col basso accordato invece che in do, re, un tono sopra. E alla fine dice, il violoncello per lo più si suona come la viola, no? Dov'è? All'ottava alta. All'ottava alta, per cui arriviamo alla fine e uno dice no, perché era così bello, mi ha rovinato tutto. Ma non è l'unico. 1708, Johann Gottfried Walther è quello di cui parlavo prima, cioè quello che ha praticamente tradotto il musico pratico di Bononcini così come stava, o quasi. Ma non solo, lui era cugino di Bach, di Johann Sebastian Bach. E lui scrive, il violoncello è uno strumento basso italiano, non diverso dalla viola da gamba, viene trattato quasi come un violino, infatti viene in parte sostenuto con la mano sinistra, che forma le diteggiature, in parte però, a causa del peso, viene appeso ad un bottone del mantello e suonato con un arco tenuto nella mano destra. E appeso al bottone del mantello mi fa venire in mente tanto le iconografie che avevamo visto all'inizio. E poi ci dice è accordato come una viola, per cui ci frega di nuovo. Che cosa intendeva con viola? Sì, perché comunque il violoncello è do sol re la, la viola è do sol re la, solo che è all'ottava alta. Tra l'altro una cosa che non ho detto prima di Bismantova è che lui dice si suona all'ottava alta, però è scritto in chiave di basso. Allora perché devo scrivere in chiave di basso per poi trasportare e suonare in realtà l'ottava alta? Tanto valeva che lasciassi chiave di violino, chiave di contralto come la viola, per cui tante cose non sono chiare. Però come per l'iconografia, quando mettiamo insieme tutto, vuol dire che c'era qualcosa, cioè non erano solo tutti errori di stampa. Lo stesso Walther nel 1732 ristampa, in copertina mette questa immagine dove vediamo dietro all'organo due di questi strumenti con cinque corde. Matheson, l'eccellente violoncello, siamo 1713, l'eccellente violoncello, la viola bassa e la viola da spalla sono piccoli bassi di violino in confronto dei più grandi con 5-6 corde, sui quali si possono ottenere con minore fatica rispetto agli strumenti più grossi note veloci, variazioni e manierismi. La viola da spalla in particolare farà un grande effetto nell'accompagnamento perché può emettere i suoni con nettezza e purezza. Un basso non può venire espresso in maniera più distinta e chiara che su questo strumento. Viene legato al petto con una cinghia, contemporaneamente gettato sulla spalla destra, così non ha niente che limiti o impedisca la sua risonanza. Questa è abbastanza chiara come descrizione, chiara del ruolo anche che aveva. 1738, Johann Philipp Eisel, riguardo al violoncello, viola bassa, viola di spalla, vogliamo mettere tutti e tre nello stesso brodo. Tutti e tre sono piccoli bassi di violino sui quali si possono realizzare con poca fatica rispetto ai violoni più grossi, cose veloci, manierismi, variazioni e cose simili. Johann Friedrich Bernhard Caspar Mayer usa il termine viola di fagotto, che viene tenuta sul braccio, trattata come la viola. Anche l'accordatura è la stessa maniera, ma tutta un'ottava più bassa e quindi tutta con corde più forti. La sua estensione di teggiatura è sillabazione, cioè i nomi delle note, è come quella del basso di violino francese o violoncello, per cui interessante. 1756 Leopold Mozart, anche qui dire che Mozart ha sbagliato a scrivere è un po' grossa, il violino di fagotto, in qualche modo diverso dalla viola in taglia e accordatura, ed è costume usarlo per farvi le parti del basso. In un altro posto dice: il violoncello oggi si suona anche fra le gambe. E arriviamo a 1766, Benda. Benda è un violinista molto famoso che va in tournée a Dresda nel 1732 e lì incontra Pisendel, che era stato suo insegnante, che era a spalla dell'orchestra di Dresda, e ha una serata concerto in casa di qualcuno di importante, si trovano a suonare lui, Pisendel e Silvius Leopold Weiss. E lui suona il violino, mentre Pisendel e Weiss lo accompagnano suonando uno la viola pomposa e l'altro il liuto, logicamente. E quindi poi, quando lui dà un resoconto della cosa, scrive: Pisendel mi ha accompagnato alla viola pomposa. E quindi in questo... che leggi tu il titolo in tedesco? In ogni Buchen Kichenachrichten und Merkungen di Musik betreffend. La viola pomposa è accordata come un violoncello, però ha una corda in più in acuto. Un po' più grande di una viola viene fissata con un nastro in modo che può essere tenuto davanti al petto sul braccio. Lo ha inventato il defunto Kapellmeister signor Bach a Lipsia. L'allora liutaio Hoffmann di Lipsia ne ha costruite diverse su indicazione di Bach. Ora, noi ci siamo fatti un'idea su questa collaborazione tra Bach e Hoffmann. È un'idea che è venuta a noi parlando con persone nei musei, leggendo, vedendo gli strumenti, suonandoli anche, però non è confermata da nessuno, nel senso non è scritta, non c'è una fonte che ti dice sì, ok, era così. Ed è che in Italia si usasse molto il violoncello piccolo a quattro corde accordato sole la mi, cioè tenore. Infatti spesso il repertorio barocco italiano usa questa estensione e non usa per niente la corda do, può anche non esserci. Mentre in Germania, secondo noi, a Bach e a Hoffmann è venuto in mente di aggiungere questa quinta corda al violoncello piccolo. Perché? Perché Hoffmann era un tecnico, era un liutaio, però era, come si dice, capo... Era l'ispettore dei pompieri, praticamente. Esatto. All'epoca. I pompieri all'epoca avevano inventato una tecnologia di fili metallici che permetteva di fare tubi molto più lunghi senza giunzione per portare l'acqua lontano con l'incendio. Cioè i manicotti dell'acqua fatti come oggi facciamo i cavi delle funivie. Fatti col filo metallico, per cui di filo metallico a Lipsia ne capivano, di tecnologie. In battutina, come seconda moglie, Hoffmann ha avuto la figlia del titolare della fabbrica di fili metallici di Lipsia, fra l'altro. Per cui aveva, poi Lipsia era un centro commerciale importantissimo, c'era una fiera ogni tre mesi da cui venivano da tutto il mondo conosciuto, per cui non avevano problemi a reperire né le corde né altri materiali. Io sono stata cordaia a 15 anni, e per me è molto naturale che se io sto facendo una corda, la rivesto col filo di metallo, non è abbastanza pesante, cosa faccio? La rivesto una seconda volta. Chi la usa non se ne accorge, perché non vede due fili, ne vede uno solo, se non la smonta non se ne accorge. Io da cordaio non vado a raccontarlo in giro, e neanche vado a dirgli: ah, attento che ti ho fatto una doppia filata, che magari questo si agita e pensa di doverla usare in modo strano. Per cui non è una notizia, secondo me, che fa subito il giro del mondo di bocca in bocca, anzi nessuno se ne accorge e nessuno le dice. Però avere una doppia filata, cioè una corda rivestita due volte, ci consente tranquillamente di avere un do su uno strumento così piccolo. Parentesi, questo non è doppio filato comunque, questo è filata semplice, per cui funziona lo stesso. Dico questo perché c'è stata tutta una polemica fra ricercatori che il violoncello da spalla così piccolo non esisteva perché le doppie filate non erano state inventate, perché sono menzionate per la prima volta in una lettera del 1760. In realtà il fatto che vengano menzionate per la prima volta in una corrispondenza privata nel 1760 non vuol dire che non ci fossero già 30 anni prima, per quello che ho detto prima. E comunque suona anche con la filata semplice. Resta il fatto che Bach e Hoffmann fanno a Lipsia tanta sperimentazione su questo strumento. Bach, come arriva a Lipsia, dopo 3 mesi lo mette nelle cantate come strumento solista, spesso senza usare la quinta corda. Poi man mano comincia a usarla facendo solo scale discendenti, che è un po' più facile. Non la usa praticamente mai facendo dei salti, che è più difficile metterla in vibrazione, se non se raddoppiata dal basso. E quindi sì, abbiamo pensato questa cosa, che l'invenzione di Bach e Hoffmann in realtà sia stata l'idea di mettere una quinta corda. Uno strumento piccolo a 5 corde così è diventato molto popolare in Sassonia. Infatti quasi tutti quelli che sono nei musei, e non sono pochi, sono di origine sassone di quell'epoca. Sì, vi suoniamo una cosina di Bach e poi vi parliamo di cosa c'è nei musei. Qua servono 2 leggi. Sì. Beh, prendi tu quelle leggi, che è più leggero. Thank you. Bene, essendo questa una presentazione, come vi dicevo, del nostro progetto, vi raccontiamo molto brevemente, perché siamo in ritardo, un po' la nostra storia col violoncello da spalla. Io lo conoscevo già dal 2003, quella giovane con la felpa blu sono io, quando Dmitri Barierov, che è stato quello che ha costruito il primo di Sigis Val Koiken, è venuto all'Aquila Corde per farsi fare le corde per questo strumento, che poi è andato appunto a Sigiswald, che è stato quello che per primo in questo secolo l'ha suonato su tutti i palchi del mondo. Poi nel 2017 io mi sono iscritta appunto a un corso di liuteria e quindi mi è tornato in mente Dmitri, perché eravamo molto amici, e per capire di più di quello che facevo, io mi ricordavo che lui parlava sempre di un metodo di costruzione che lui aveva scoperto negli antichi trattati. No, ce l'ho qua. E quindi l'ho contattato perché mi spiegasse questa cosa di come, secondo lui, disegnavano gli strumenti musicali, nel senso non con la matematica ma con la musica. Vai, visto che hai preso... Questo si chiama monocordo, anche se ne ha due. Però ne ha due. In questo caso ne ha due perché è più comodo. E si prende la lunghezza vibrante dello strumento di cui si vuole costruire, e tutte le misure dello strumento, interne, esterne, eccetera, vengono basate sugli intervalli accordati su questo monocordo. C'è una lunghezza che deve essere la quarta, l'altra che deve essere la quinta, l'altra che deve essere la settima, maggiore o minore, a seconda, e chi costruisce o chi si fa costruire lo strumento può accordare gli intervalli secondo il proprio orecchio, e in base a questo cambiano le misure dello strumento che viene costruito. E perché? Perché il concetto è che se tutte le misure sono un intervallo che suona, è qualcosa che suona, lo strumento deve suonare. Ed è anche piacevole da vedere. Nel senso, in realtà questa teoria non è, questa è la teoria di Vitruvio per costruire i palazzi, cioè l'architettura di Vitruvio, lui spiega esattamente questa cosa. È stata poi ripresa nel Cinquecento da tutti i neoclassicisti, per cui Palladio, ad esempio, e ci sono un paio di trattati, accidenti, non mi viene il nome dell'italiano, c'è un italiano che ha costruito un sepolcro famosissimo a Firenze, che ha scritto: bisogna fare così, così e cos'ha per fare le decorazioni del sepolcro esattamente come si fa per gli strumenti musicali. Mette questa frase qua. E invece c'è un trattato spagnolo, Nassar, che spiega esattamente come fare uno strumento, cioè ti dice qua metti la quinta, qua metti la sesta, qua metti una settima. La cosa carina è che gli strumenti di area tedesca, oltralpe, usano principalmente delle consonanze, mentre gli italiani delle dissonanze. Gli italiani avevano questo carattere un po' più pungente. Comunque, dicevamo, nel 2017 contatto Dmitri, gli chiedo questa cosa e faccio un training con lui di un anno e mezzo, in cui io volevo costruirmi un violoncello barocco, però lui mi raccontava del violoncello da spalla. Un violino barocco, sì, ma lui mi raccontava del violoncello da spalla. Allora, dopo un po', lui mi dice: vabbè, se non lo fai tu, lo faccio io. E quindi si è messo lui a costruire il nostro primo violoncello da spalla. Una volta che l'ha costruito, quello che vediamo in bianco lì, per capire se avevamo fatto una cosa sensata o no, ho pensato di contattare Sigiswald e farglielo provare. Per cui siamo andati da Sigiswald, l'ha provato, ci ha dato indicazioni ed è stata comunque un'esperienza molto carina, molto utile per noi. E da lì siamo partiti, abbiamo deciso di andare in giro per un po' di musei dove ci sono degli originali a vederli. Questo, quello che vedete arancione a destra, è appunto il primo strumento di Alessandro, mentre quello più marrone è un Hoffman originale che sta in museo a Lipsia. Per cui da qua si vede che il modello che ha usato Dmitri e che abbiamo usato noi per i primi strumenti è chiaramente preso dall'Hoffman come misura, è la stessa lunghezza e stessa altezza di fasce, molto, molto simile, solo un pochino, diciamo, reso un pochino più elegante. C'è anche un altro Hoffman originale in museo a Bruxelles, che è quello sul tavolo davanti a me, quello più scuro, e ce n'era un altro a Lipsia che è andato perso, che era tra l'altro proprietà del Thomas Cantor, è stato proprietà del Thomas Cantor fino al 1932. E mentre c'è un altro Hoffman originale a Berkeley che probabilmente era proprietà di Carl Philipp Emanuel Bach, era nel testamento alla morte di Carl Philipp. E poi ci sono tanti strumenti di altri autori, tutti autori provenienti dall'area di Borsendorf, per cui della Sassonia. Vedere tutti questi strumenti ci ha permesso di creare il nostro modello, seguendo il metodo che lui vi ha spiegato prima e modificando alcune cose per renderlo più comodo. Qua ancora delle foto da musei, quello in alto a destra è l'Hoffman di Lipsia, l'altro è Bruxelles dove c'è l'Hoffman scuro in mano d'Alessandro e ci sono altri due strumenti d'epoca praticamente identici. Sotto ci sono io che mostro il nostro a Sigiswald e a Richard Gilt e ancora sotto ci sono io che guardo con dubbio lo strumento di Lubecca, che è appunto quello da cui poi è nato questo. Con dubbio perché è uno strumento molto strano, molto diverso dagli altri. E quindi io mi ero già presa l'impegno di costruirlo quando l'ho visto, ho detto ups. E intanto ha il manico corto, ha un manico decisamente corto rispetto agli altri strumenti, che molto si allinea comunque con tanta iconografia dell'epoca, per cui molto bello. E il manico è senza dubbio originale. Qua vediamo, mentre lo costruivo, appunto il manico corto, che è della stessa lunghezza di un manico di violino, per cui sta comodissimo in mano. Qua sono appunto un confronto tra il mio e l'originale e si vede che il mio ha quella scanalatura e poi c'è quel blocco di legno, perché il metodo di costruire prima di Cremona, diciamo, prima dei cremonesi, era questo, di lasciare un blocco dopo il manico in modo che il manico non si curvasse e infilarci le fasce, mentre dopo a Cremona si è deciso di fare una forma, attaccare dei blocchetti di legno e incollare le fasce su questi blocchetti in modo che stessero a posto. Invece questo strumento era fatto chiaramente, cioè senza blocchetti, per cui era fatto a forma libera. Quindi ha voluto le cose perfette. Questo invece c'è il fondo, poi sul fondo comincia a incollare le fasce, le infili nel manico, che è una cosa che in realtà non avevo mai fatto prima, è stato molto divertente, molto istruttivo farla. E qua si vede l'interno dell'originale confrontato con l'interno del mio. E questo è anche quello che ci dà la garanzia che il manico sia originale. Cioè c'è ancora da dentro, lo vedi, che è ancora tutto lui. Ed è tenuto insieme con della stoffa invece che con le controfasce di legno. Qua siamo sul nostro terrazzo, che sto per verniciare un altro strumento, e ho messo questa foto per mostrarvi quella chiesetta che c'è lì, che si chiama San Giorgio a Meltina, dove quest'inverno abbiamo scoperto per caso, andandola a visitare con degli amici, che dentro c'è un altare ligneo bellissimo del 1600, questo che vedete, che ha questi due angioletti sull'altare. Per cui che uno dei due angeli ha una grossa viola da braccio. A proposito dell'iconografia, che sì, è di solito quando gli angeli sono due, uno fa l'accompagnamento e l'altro fa la melodia. E quindi qua abbiamo quello con liuto e quello con la grande viola, cioè in realtà sono due strumenti da basso. Chi dei due fa la melodia? Tutti e due la possono fare, per carità. E questo è il dietro dell'altare, in cui si vede lo stemma e la dedica dell'altare, che è stato evidentemente commissionato dalla famiglia Hafner, che è la famiglia più antica e più importante dell'altopiano di Meltina, e commissionato nel 1609, e si vede lo stemma, che è questa pentola d'oro con i tre fiori, e, che è stato dato a loro nel 1523 dagli Asburgo, e tramite un matrimonio poi loro si sono imparentati con gli Asburgo, hanno acquisito una F e sono gli Hafner che hanno aiutato Mozart a organizzarsi la tournée in Italia e per cui lui ha scritto la Sinfonia della Serenata. Cioè, a noi che viviamo a Meltina questa cosa ha abbastanza colpito, esatto. E quindi questo stemma con la pentola d'oro, che secondo me porta sempre bene, una bella pentola d'oro, io l'ho poi usato, ho cercato di integrarlo nei miei strumenti, per cui mettendo i tre fiori dietro al riccio e usando più o meno il logo, che poi comunque appunto è diventato anche, cioè, lo stesso logo che è stato usato per il comune di Meltina. Per cui questa è più o meno la storia che noi abbiamo cercato di raccontare in questo video che adesso vi mostriamo, che è il coronamento, diciamo, del progetto sponsorizzato dalla provincia, e che è il video di un'aria tratta da una cantata di Bach in cui ci sono violoncello e flauto solisti, aria per soprano, che noi abbiamo registrato appena 2 settimane fa, perché con tutto il Covid anche noi abbiamo avuto tutti è stato rimandato un sacco di volte, ma ce l'abbiamo fatta, che abbiamo registrato a Merano, in cui ci sono appunto delle immagini che spero che ci descrivano. Adesso speriamo che parta il video. Yes. Thank you. grazie. Questo, grazie a voi. Questo è quanto. Oh, beh, questa era la presentazione di un libro in realtà. Del libro abbiamo parlato poco, ma il libro contiene semplicemente un po' tutte le iconografie, le cose di cui abbiamo parlato. Più un sacco di disegni fatti da lei. Sì, sì, nel senso che non è un libro serio di ricerca, è un volumetto in cui ogni tanto l'ho messa un po' a sorridere per far capire che c'è ancora tanto da fare di ricerca seria. E se vi interessa, ho qua qualche copia del libro, e se qualcuno vuole provare abbiamo qua anche quello un po' più normale, un po' più agile. Questo è il modello. Ma quando che... poi si è esaurita questa tradizione? Esatto, domande. L'ho dimenticato. Questa è la domanda. A un certo punto la tecnica strumentale è migliorata, il gusto è... La tecnica violoncellistica. Il sonoro è cambiato. Le necessità, anche la tecnica di costruzione ovviamente è cambiata, sono arrivati i cremonesi che hanno vinto tutto, diciamo così, e un po' alla volta si è standardizzato il quartetto, quello che oggi è il quartetto classico, diciamo, e questo strumento è stato abbandonato nella musica classica, diciamo, nella musica cosiddetta seria, per restare comunque in altri generi di musica, nella musica popolare soprattutto, in cui non è mai uscito peraltro. Tutt'oggi ci sono nostri conoscenti in giro per il mondo che usano questi strumenti, anche strumenti originali del Settecento, per fare jazz, per fare country, cose del genere, perché è uno strumento talmente versatile che permette di fare un sacco di cose, e ha un timbro particolare che si inserisce bene. Sì, però il tenore è sparito dalla musica colta come taglia e come voce, perché noi abbiamo comunque il quartetto con due soprani, contralto e basso, il quartetto classico. Sì. Mentre una volta il quartetto era soprano, contralto, tenore e basso. Il violoncello, quello vero grande, è ovvio che ha una portata maggiore, per cui nel momento in cui i violoncellisti si sono trovati a loro agio a fare le parti acute scritte prima, cioè scritte nel periodo barocco, questo non aveva più tanto senso di essere, se non per chi lo usava camminando, marciando, per cui in realtà ci sono delle foto d'inizio Novecento di Zigani che... Con strumenti così più o meno. Sì, messi quasi come le iconografie dell'inizio, però sì, è rimasto un po' nella musica popolare. La cosa curiosa è che nei musei ci sono tanti strumenti costruiti a inizio Novecento. Proprio così, qua. Piccoli con 5 corde. E ci si chiede ancora il perché. Sì, nel senso, ad esempio, il Museo Milano ce ne sono 6 fatti da un certo Zorzi di Firenze nel 1920. Perché ne fai 6 se non hai un pubblico, un mercato? Cioè, non ne fai 6 per metterli in magazzino in Museo Milano. Ma Dolmetsch, quando ha cominciato a Dolmetsch? Dolmetsch ha preso. Un'onda di entusiasmo. E tu dici che quello ha creato... Me lo chiedo. Perché anche Mark Neukirchen in museo ce ne sono 6 o 7 del fatti nella prima metà del Novecento, appunto negli utai che cercavano nuovi mercati, nuovi strumenti e quindi hanno proposto questa cosa. Infatti, cioè, l'idea sarà venuta da qualcosa, non avevo pensato a Dolmetsch. Dolmetsch ce l'aveva, lo usava, aveva uno... come si chiama? Quello di Mittenwald, originale. Aveva uno Steiner originale, piccolo, però, che si metteva sì. Sì, collezione privata, non so dov'è. I vantaggi di arrivare per primi. Sì. Però sì, semplicemente è perso l'interesse. Metà Settecento fino all'Ottocento. Badiaro ha fatto un lavoro di sintesi studiando gli strumenti che ci sono, studiando i trattati, e ha, diciamo, cremonesizzato quello che era il violoncello piccolo che esisteva, di Hoffmann soprattutto, e noi abbiamo cercato di un attimino di decremonesizzarlo per renderlo un attimino più gestibile, più suonabile, più facile, diciamo, da tenere, da usare, e anche dargli un aspetto un po' diverso, con queste F di ispirazione bresciana più che quelle che aveva fatto lui, più lunghe e con le C più aperte, in maniera da avere meno problemi con la gestione dell'arco. Ma c'è voce. Questa è la mamma che lo sgrida. me l'aspettavo, infatti mi sono stupita che non è arrivata prima. Me l'aspettavo mentre suonavo. Sono più forte! Si vede la differenza di lunghezza della cassa, è alta più o meno uguale. La cassa è sì, sono certo. Grazie. Sì, la cassa del Wagner è un po' più grande, però ha il manico più corto, per cui alla fine è più corto. L'altro è montato tutto con corde moderne. Queste sono corde moderne e queste sono corde... Questo l'avete fatto voi? Questo l'ha fatto lei e questo invece l'ho fatto io. Ci dividiamo i compiti. Mi abitate a Meltina? Sì. Sì. Come andate con la chiesa a San Giorgio? Sembra di andare a visitare. Eh sì. Bisogna andare lì dalle persone che ci abitano e chiedere la chiave. Sì, il maso di fianco, loro hanno la chiave. Molto carina. Molto, veramente. Sì, siamo rimasti sconvolti a vedere. Poi ci sono anche degli affreschi nella chiesa. Mentre le altre, perché sono 9 chiesette di quelle dimensioni tra Meltina e Verano. Però l'unica affrescata è questa. Ma come mai hai fatto fatica a trovare un tenore o basso? In che senso? Per questi pezzi. No, non è che si fa fatica a trovare tenori, semplicemente oggi come oggi gli strumenti tenori di questo tipo non esistono più nella musica classica. Ormai dal Settecento, insomma, diciamo da Haydn in poi non esistono più. Però fino al barocco c'era repertorio. Una volta c'era. Una cosa che lei non ha detto, una piccola cosa però significativa, Bach in alcune cantate ha messo la parte, ha scritto violoncello piccolo nella parte scritta a mano del primo violino. A un certo punto parte di violino, c'è scritto violoncello piccolo. Cambia chiave, copia la chiave di basso, mette giù, piglia e suona. Non vuol dire qualcosa? Boh. Sì. Non in tutte, in altre sta nella parte del continuo. In altre invece lo fa il basso. Probabilmente dipendeva da chi. Anche Bach in quel periodo era molto in concorrenza con Telemann, che era all'opera invece. Telemann pagava meglio, quindi i musicisti migliori andavano da Telemann e lui si lamentava sempre con il comune di Lipsia che non gli davano abbastanza soldi e abbastanza strutture per avere musicisti migliori. Aveva chi aveva, una volta aveva quello che suonava il violino e suonava così, una volta aveva quello che suonava il violoncello o la viola da gambe lo suonava così probabilmente. Bene, e via. Grazie. Grazie a voi, è stato interessante.